Giammarino. Buonasera, buonasera, beh. Sì, se loro rientrano parecchio. Non c'è, rientrato adesso. Dai, sta facendo. Perché mi male passa la radio sto? E adesso passa, È sotto strana, Non è proprio incisiva la radio. Quale sai? Sempre lo stesso sto adoperando, sempre lo stesso, né più e né meno. Rimane a metà volume più, per sentirsi bene, capito? Tutto. Spero, basta. Deve buttare tutto. Buonasera comunque. Hai visto il tocco? C'è entrato il signor Battisio. Buonasera signor Battisio. E adesso basso E ora? Cazzo, perché l'ho chiuso il macchinino ciò? Adesso sei tu. No, deve aver aumentato dal microfono. Adesso sta cominciando a scaricarsi la batteria. E così deve essere. Almeno se stiamo bene. Guarda questo volume. Per riuscire a capirsi. Bacchi, cosa ti racconti? Stamattina qualche goccia l'ha fatto, ma non è che l'abbia fatto molto. Ma adesso non sta piovendo però. Facciamolo fare. Certo, non è mai troppo. L'importante è che faccia bella quella pioggia serena, serena. Quella va bene. L'importante è che lo faccia l'anno. Non si è uscito, signor Mattino. Questo poi la cabinella fa male, vedo qui a poco poco. Non ho capito. Ma hai capito? No. Piano piano, che non la cabinella. Infatti allora, piano piano. Lemme, e se padevi, ya va bene. Territorio di sole, non c'è piovuto, vero so? Ah, stamattina stava piovendo, ma stasera no. Stasera è mudinato da appena, anche a parte mattina stamattina, presto. Ecco, si parla da Zigugliese. Ah, non la sentite io, no. Non l'ho sentita perché ero dormito, non la sentite. Quando mi ha suonato la sveglia, alle 6:30, allora... E vedassi che hai appena finito. Non mi ricordo che era, non ho guardato che ora è, però ho fatto una bella scaricata, non ci dico niente. E poi la bacchese, non so, guardate pure la bacchese oggi che si abbia fatto. Ah, così è, sei messo l'ombre, ma quello grande e quello piccolo. Sono piccolino. Ah, va bene, stasera sono sceso, ho dato una così una guardata, però è troppo molle, carrera troppo molle, che non ho fatto niente, me ne sono salito, perché si è cominciata a crescere l'erba, per cui era tutta bagnata, dentro ci sono entrato, sto passando la camminina e basta, poi taglia io, che è troppo fuso. Questa giornata è bello. Cresce troppo l'erba. Noi la tagliamo. signore Vizio Bacchi, tu stai uscendo. Questo è un vizio, sta preso tu, Bacchi. C'era una portante però, boh, c'è nulla. Allora, Giorgio Marì, Catta e Comandano, no, stamattina c'era, stavo parlando al telefono con tutta Italia, e poi anche ho sentito anche a Giulio. Lo so che lì col telefono è tutta un'altra cosa. Ma ti interessa a me non mi interessa, io lui se mi manca, a mattarmi un capo con un telefono a fermare là, non saranno di Vito Bacchi. E aspetta perché non è entrata ancora, deve essere salito su. Ah, capito, a chi interessa? A me no, per adesso no. Oh, ma no, non mi interessa, io da molto tempo l'avrei voluto installare, però non ho installato mai questo, no. Non ci prendo più gusto a parlare così, capito? Mentre invece come stiamo a fare adesso, mi soddisfa di più. Sì, infatti, soddisfa anche a me così, da maniera io... niente in treni, ma da tutte le parti, Milano, Torino, Palermo, si può dire di tutti i luoghi sono in treni. Sì, ma sì, è vero, ce ne sono parecchi. Ieri ho continuo, c'era questo qua che stava mandando la registrazione su 45 in PMR, che mi aveva fatto la parola, mi ha una cosa del genere in PMR, perché cazzo si deve trasallare in PMR, non lo so, già che siamo già fuori, si può immaginare, cominciano così, fanno casino e allora e dopo si c'è fatta tracca. Non ho capito Gian Maria, cosa ha fatto questo? Stavo trasallando su 45, su PMR, capito? Oh, ma stava facendo qualche cosa di brutto? No, stava facendo sentire le chiamate che facevano, capito? No, così non andava, così in brutta, boh. No, ma infatti, no, a me non mi piacciono quando fanno queste cose del genere. Parla, dire cazzate, ma non trasallare perché non va bene, capito? Però, io non tutti siamo perfetti, quello lì mi piace fare questo lavoro così, però non va bene, perché da uno ci piangono tutti, capito? Ho capito, sì. Ho capito, è una cosa che non deve succedere, perché la cosa ascoltano, chi si comporta bene non li zeccano, ma chi si comporta male li zeccano da bui, ero zeccano a isso. Siamo tollerati, capito, però abusiamo, la questione comincia a essere un po' pesante, ecco, faccio bene, per cui una volta che ce l'abbiamo, teniamocelo come si deve, ragazzi, questa frequenza, capito? Per cui è meglio, capito? L'importante è perché sappiamo che non si può trasallare, capito? Assolutamente sì, esatto. Infatti, cazzo, io sono appena trattato, è coso. Se ti nuda e c'è che niente imbrutta, è una cosa che non deve essere così. Vabbè. La prossima volta si sta più attenti e si lascia la giura. Fai sentire gli altri le cose che non deve ascoltare lui, non deve ascoltare. Sia Castiglia, non è che lo deve mandare in frequenza su un'altra frequenza che siamo tollerati anche, capito? Ognuno ha mai già risposto, per cui, però, domanda ti dà fastidio, ecco. Non solo a te, no. A parecchia gente, specialmente quelli che ascoltano. Ecco cosa è. Vediamo, va, lasciamo più lì, che è meglio. Signor Bacchisio, entrato sì. Ma arrivederci. Quello. Adesso si sta cambiando le scarpe, sta cambiando e si sta rinfrescando dopo sta lì su. Ma già c'è caldo dove lui su. Va. Di nuovo il braccio, cazzo, oggi, cazzo, sta già a tocchetti, va a fare di già un mattino, la gente fatica, è posato, è dritto, se ha sempre visto, cazzo, un coppio di mattini, permesso. Cosa ha detto il signor Bacchisio? Si può, si può. Avanti, avanti. Esci con fischio, dottore. Con fischio esco. Innescando. Io? No, Bacchi non sta innescando, dottore, sta uscendo bene. Allora, qui ogni po' io sento. Oh, è perfetto, lascia la portata, dottore. È perfetto, Allora l'apparecchietto il tuo, Bacchi. Cazzo, dimmi lo fruscia. Ma tu lo frusci, tu fruscia solo dove? Tu nulla. Quando vuoi la torre fa No, io non sento niente, sinceramente. La radio è perfetta, boh. Ma sei sicuro, signor Bacchi? Tu c'hai qualcosa, strano, aspetta che sta con la colonnina, vedo se sia la colonnina che ha fatto con questo qua. A fa? Oh, vai, Tore. Lo guarda a vedere adesso. Adesso no, adesso va bene. Allora la colonnina duia. Adesso lo inserisco. Sì. Andiamo bene, andiamo, signor Bacchi. E quindi allora, signor Bacchi, la ci piove? Adesso andiamo bene, vai, vai, Tore. non lo so, adesso sta funzionando tutto bene. Tutto ok, presto giusto. Era la colonnina allora che stava innescando. È attaccata la colonnina, è attaccata, è inserita. Vuol dire che c'è, che ti fa, qualche volta ti fa l'innesco, a meno che non era spinto bene lo spinotto. Non lo faccio, forse perché era freddo, devo mettere la coperta, e adesso però mi copro un'altra punta, e la notte quando vado giù li copro, li involgo, e metto anche la copro, la termocoperta. Lo devi coprire perché sennò si prende il raffreddore. Sara Giomari. Eia, ma senta Bacchisio, gli ha amplificato le colonnine, quando parla le esce amplificato, ascolta il terrazetto. Ti amplificato il microfono, Giomari. Ah, il microfono, bravo, è amplificato, però va bene, adesso bella forte, benissimo Bacchia adesso. Il microfono c'è un ricatto, quello da tavola. Ah, che è? Il 4? Il 4? Ah, va bene, va bene. Bella amplificata, abbastanza forte pure. Che è sempre che è forte. Perché è già una settimana sotto accento. Ah, per quello, Allora ha cambiato anche il colore. Sei diventato un po' più nera. Senti, sotto. Ma la vernice c'è ancora, Bacchi? La vernice c'è, ma è nera. È diventata nera. Aspetta che andiamo bene. E beh, andiamo, allora, male. Si fa sempre bene. Andiamo, beh, andiamo. Oi, oi, oi. Sicuro, sicuro. Dunque, questo qua va di lusso. Sta andando con i piedi sui. Infatti, andiamo bene. Allora, a ci piove in campagna? Ah, guarda, dentro la Tettoia non ci piove nulla, se siamo così bene è una meraviglia. Stiamo facendo pasticci. Io che ci ho passato la mattinata così facendo pasticci. Piccolai. Raggio Maria che ci pioveva anche lì. A Maria non ci mette un bello, ma forse piove. Ma forse piove. Capito? Già ero tutto coperto, io chiedo, non ci pioveva da me. Ero bello asciutto tutto il giorno. Capito? Stasera sono sceso, però mangiavi le scarpe, allora sono passato dove era asciutto e 5 minuti ho caricato e me ne sono salito subito e sono sempre in caldo. Sì, andiamo bene. Non si può fare, non si può fare nulla. No, io sono stato stamattina, stiamo facendo un dragone, capito? Stiamo alveggiando. Non ha problemi di niente, per cui è tranquillo, invece noi siamo diventati, oh tu vabbè c'è tutti i giorni, ma io tutti i giorni, uia, è che la gara più, ma non ho più voglia io no. Io scendo tutti i giorni, la mattina alle 7:30 sono in campagna, a mezzogiorno sono a casa, alle 2:30 sono in campagna, alle 4 sto partendo da campagna. Vabbè. Io altro sistema, io quel sistema non posso averlo, è meglio che non le abbia quest'anno, no? Oh, ti sto dicendo che non già ti sto scendendo poco, per cui magari in qualche giornata bella gli accendo e qualcosa gliela faccio poco a poco, roba leggera però, roba pesante non le faccio. Oh. Piano piano si fa, ma è lei che mi stia ammazzando, no? Quando io voglio le faccio, quando non voglio mi siedo e mi leggo con il giornale oppure prendo un ricordo. Mi sto lì a chiacchierare con i cani, a parlare via con i cacciucci. Io non ne ho voglia, bastano farli ed è tranquillo. Io scendo quando ne ho voglia, quando non ne ho voglia mi sento. Poi sto diventato troppo poltrone adesso, così che non mi fanno fare niente, ecco. Questi dolori, ma chi, per carità, oh, se ne vuoi te ne do un po' così. Se vuoi te ne do un po' io. Se ne do un po' io, sono lì. Io ho una gamba che non posso stare dei dolori, sempre c'è i demoni dentro. Poi si prende dal ginocchio in giù, sotto il piede. Sembra un vecchio di 90 anni camminente, no, con il piede della cinoia, no, perché mi dà fastidio appoggiarlo per terra. Ah, visto, sto, meno male tu non ne hai questi problemi, ragazzi. Sei tranquillo, in caldo sempre, te ne alzi quando vuoi. Cazzo. Così, ecco. Infatti è così. Vabbè. Per musi. A fare il caldo sempre, specialmente in questo periodo, un po' caldo, un po' freddo, e i malati invece da figlio. C'è caldo e freddo, un giorno devi coprire, un giorno devi scoprire, oppure il giorno che ti scopri ti frega. E allora, per carità, non se ne capisce più niente questa stagione, ragazzi. Molti anni fa, ragazzi, in questo periodo, ragazzi, un freddo che fazia, te la metti. Sì, era freddo, ma là invece non ve ne è freddo, niente, e sono cambiate le stagioni. Ho visto una pianta di struzzini che è vallata, sta togliendo le foglie, sta germogliando. Infatti, qualche pianta succede sempre queste cose, per carità, ragazzi. Cazzo, altrimenti allora chiaro che qualcuno si piglia prima e da voi al video si uscì per niente. Ma la prima la padrona. I fichi sono i fichi, i primissimi, sono come da a gonfiarsi. Dice che va con le ragazze ne va tutto in terra. Ah, è certo. Da me, sì, un cacco ne ho parlato, da voi ne ho parlato, tutti sono un cacco, tutti li ho parlato, in terra c'è un manto che non finì più, capito? Così che io va, da me, sto andando in abbastanza di vostro coltivatore, ho parlato va tutto, e qui c'è col cime, mi va. E col cime? Ne ho parlato che mi ero mai, ma solo ne parlava. Anche. Vabbè, ma ci sono le serre, i fermi, che hanno andato sotto terra e a Murini. Ah, questo sì, questo a Murini, a Maragana puro. A Maragana Murini. Sì, ma bisogna prevedere prima quando è coso in fiole, che come si è da sciupolare, dargli un poco di medicina. Esiste ormai che i medicini che durano in 3D si può usare benissimo. Basta, hai visto, ho comprato un quintale di concime, qui c'è 12, basta. Era già seminato tutto quanto, era bianco, ma era la leve. La leva a farsi campagna mia. Ah, vai sciogliendo, hai aspetta, fra 15 di vedi il buon fuzzina gatta, allora sai come è cattuata in fretta, chissà. È bella vogliosa, esci questa budina, si fa con cim, la distrugge domani, ma se mi sia un pestareddo, torna a farsi. Ma io già la driccio, ogni tanto la driccio, così che... E poco cresce che andrò a pulci col cime. Cazzo, tutta è da budina, capito? Cazzo che è crescente, cazzo. Ma questi siti vengono come te, chi se vivo in questi siti a Salamanco 30 centimetri. Devi comprare un po' di veicoli, devi comprare il buon invallato, io vi lascio ogni tutto. A fare il passamento di pigliatore. Ehi! La più di terra io, non è che d'accogliono, la più di terra io, la butto tutta canta in coso, in un trocco dell'albero, della frutta, e la vera ragazza, come si cresce la pianta. È tutto con cima, tutto con cima questo è, roba nona. Se si è lei, anche lei. Sì, no, le piante che ho io, che si concimano da solo. Se non si ricombinano, se non riburino, che si pianti, si mangia per questi cibi. Cercate, davanti a che sono i pini, c'è un leandro, e fai una giorno che pulisce e dai lo schiaffo al comune. E cosa vuoi fare? Aveva già detto di Aricio di Buri Kiwi, che è un montinaggio, poi abbandonato due. Se lo fai tu, dai uno schiaffo al comune, dice guarda, un vecchio nel turbino in pensione ha fatto pulizia a Santa Maria di Pisa, c'è anche pure in giornale, in televisione blu di Vilimbo. E lo dice Marì. Infatti allora, è abbastanza non ti credi però. E state nei preschi, Eddie, che ho botto io. Però si attaccano a Rodra, si attaccano. Ehi, no, si attacca a Rodra, sì. Non si aggancio a attaccarsi, capisci? Che è? E non si attacca, è vero, ma... Non si attacca, tu fa pulizia dopo, la potidini. Ti vedrai che ti vediamo a Vigliolina. Ti vediamo a Vigliolina di Vilimbo. E vedrai quanta gente viene a trovarti poi a ringraziarti. Un attimo il telefono. Via, via. Anche il sindaco viene, mi tocca. Infatti anche il sindaco me. Non mi piaceva a toccarmi nel manco, non è roba mia. È un'opera di bene che fai. E questo è il nesco. È disabortante. Si muovi però non entra. Entra se vuoi entrare, la porta è aperta, amico. No, la lasciamo la chiudiamo la porta. c'è Marino in ascolto. Marino, sento Marino di campagna, segno di campagna, non si è sentito nulla, impegnatissimo è. Ehi, cosa puoi fare? Vuol dire che non ribiate scuotere, ma non entra. Vedi che è vagognoso. Tra poi un garage la vagogna. Andiamo, andiamo. Vabbè. Giulia, certo. Giulia Giovanni. Telefone. Al telefono. Ma chi? Al telefono. Dunque sto telefonendo. Certo, c'è canta gente in treno. Gru telefono. Io cominciavo con quell'applicazione. Sassari, Torino, Milano, Sicilia, Cata, Genova, cos'è che no? Ah, vedi, senti. Per quello viaggio via internet, certo, via internet sto viaggiando. Internet, parli con l'applicazione, parli. È gratis tutto, Bisogna avere, c'è gratis. Bisogna avere la stangata da voi quando arrivi. Infatti, una cosa molto molto di cose, ma camionisti, cos'è che noi, a mano a mano si sta spargendo tutto in Italia. Che l'hai inventata questa roba? Non so, io l'ho trovata da cose, me l'ha detto Luca, lui mi ha mandato l'applicazione, poi con l'applicazione non riusciva, allora me l'ho sceso io da internet. Ho capito. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio, ho giusto che lo trovo detto, mi è arrivato un messaggio, c'è TR, non so cosa, un mucchio di sigle e poi i numeri. E io te lo faccio vedere io come che bisogna installarlo, perché sennò ti chiede del coso e vuole installato e poi devi fare la registrazione, ti danno la cosa, il numero della password per entrare. Numero, capito. No, ho trovato il messaggio l'altro giorno al telefono, è scritto il mio nome e cognome e poi questa sigla. Questa sigla che corrispondeva, siamo 4-5 vocali e uno dei numeri, non ricordo insomma, l'ho visto anche stasera, stavo girando e l'ho visto. Adesso per andare giù, se te l'ho fatto capire qual era, domani se ti sento te lo faccio per capire, te lo dico per fare, almeno un po' se è quella sigla lì. No, aspetta, prendo il telefono e te lo faccio vedere. Il telefono ce l'ho giù. Torre. Ma qua, aspetta un attimo, Giomari. Sto chiedendo questo gesto, dai. Va bene, allora ci sentiamo, Giomari. Alle prossime, a domani. Ok. Ciao, Giomari. Riprendi i bacchi. Ciao, Giomari. Buona serata. Siamo in casa. A domani, se tutto coincide. Buona serata ancora. Ok, ciao. Attento, dottor Marino, ci sei? Allora, bacchi, quello coso era link code MTK1ME5. Mi sembra che sia una cosa del genere, top. Una cosa del genere. Ma non ci riesce con quello lì a aprirlo. Perché non te va a aprirlo, ti richiede, va a installarlo e ti richiede il coso per installarlo sul programma, magari ci riesce a installarlo. Prova ad aprire a vedere se te lo fa installare. Sì, vabbè. Adesso non ci scendo, perché se scendo poi non salgo, mi dovrà incazzarmi. Adesso domani ci provo, lo guardo, anche stavolta quando scendo ce lo voglio vedere se dà qualcosa. Questo è con Google lo devi aprire, con Google com. Allora sto APS dettagli con media Europa. Non mi conosci, un po' che simile a quello che si è scritto. Questo messaggio non so chi l'ha mandato, io l'ho visto, però non si è scritto. capito chi era, chi non era, che non si è presentato. Della Midland, Midland Europa, hai capito? E come lo apri? Se la cosa c'è scritto installa, vai a installare con medio Google, non so se te lo fa installare, poi che l'hai installato ti devi registrare e poi loro ti arriva il numero tramite email. Ho capito, e se non c'è il numero non senti nulla, non entri nulla. E direttamente con il coso, se ti chiede la registrazione, poi ti chiede il numero del telefono, devi mandargli anche l'email, devi mandare e ti mandano il messaggio loro, direttamente con il numero. Un po' di giri bisogna fare. Cosa ti dico, tu? No, io l'ho installato. Se sto parlando con un sacco di gente, ho parlato. Poi, se faccio un po' di cipolle, certo, adesso riprendono la 27 su quel punto lì. Passerà un mesetto, poi muovono tutto. No, già è una cosa comoda perché parli con tutti quanti, ecco cosa è. Anche qua a me pare di Gruppurugun Cagliari, sa cosa, ce n'era oggi, ce n'era anche uno di Cagliari. Penso di sì, perché se via internet non è a fonte, roba varia. Dovresti parlare sì. Sì, no, a parlare ci parli tranquillamente, capito, con camionisti e con colleghi non fa vedi. Ai camionisti va bene. Ai camionisti trovano tutte quelle antennine che c'hanno in giro. Sì, no, già se lo tengono lo stesso e ci parlano. Perché devi parlare quando sei con i camionisti in macchina, devi parlare con l'auricolare, devi parlare. L'auricolare col Vox. Devi avere il box. E ci devi parlare ugualmente. Perché devi schiacciare e parlarci. No, col box no, col box come apri bocca si apre da solo. Questo qua è anche quello che hai tu. Se ci metti l'auricolare con la prova, c'è il box inserito. Infatti è così, a me portano le cose quando sarà giovane e pura, quando vado a prendere a mia figlia, vengo in contatto con qualcuno, con camionisti e cose, e si può fare sì. Si può fare, posso mettere il box, oppure il telefonino non ce l'ha il box. Bisogna premere. Ah, col telefonino c'ho il coso, io c'ho da fare l'applicazione che funziona con il Vox. C'è quello lì, è buono. Per la macchina va benissimo. No, questo qua già c'ha tutto, c'è la buglia. Devi mettere l'applicazione e lo usi. Ah, ma con gli auricolari anche lo fai, che si schiaccia il pulsante da sé. Che vuole entrare avanti. E tutta la sera così, punto importante, che si accorta male il burro, sta funzionando male. Non esce, graffiante. Se non c'è la giusta funziona male, sta funzionando. Vuol dire che il padrone funziona male. Andiamo avanti. Chietta. C'è religione più, non c'è religione. Bisogna andare da Maometto. Infatti, bisogna andare a cosa bisogna andare. No, Giulia. Certo, faccio un duro di fina, che non ne posso più. Io faccio un duro di lanca, non posso fare. Ne pigiate, ne allungate, ne riuscite a maniera. Infatti, la lunga. 22, la vice no, se lui ce la piglia la ciclette sta lì a nera. Ehi, dove poni una canuba? Mi dai la piglia di campagna, se mi hai fatto un collaggio da lì, va a venire fortuna. Il legno, eh? Il legno macello rurvai. Solo, il legno macello, olivo, olivo, caro. Vedo, pescio, ma manco l'odore non si consuma. Olivastro lo fai. Sono bisogna trovare la grosso, caro. L'olivastro grosso. Prima quando ho comprato la campagna c'era l'olivastro grosso. Tu devi pensare che quando l'avevo tagliato sono usciti due cavi di legna. Il tronco in due non lo abbracciavi. Oh, ma te l'hai conservata tutta quella legna? Sì, la quale ne va pure a consumare, che ha idea. Certo, l'ho da stagionata allora. Era vecchia, vecchia, legna vecchia. E per due anni non ho comprato legna, ho dato legna io per due anni. Venire legna, e via. Era un bosco. Una bella stagionata anche. Bruciava più bel puro. Senti lì vazia. Questa è più, più senza fumo, senza nulla. E avevamo venne però. Allora quando portiamo gli alberi il prossimo anno, esce poco di legna. E si trabocca, capenne, fa di pulizia e si trabocca. E tanto tu non la adoperi, quindi non c'è il coso di adoperarla. Non c'ho niente ad adoperarla, non li tratto. Io avevo un bel po' di legna, c'ero in campagna. Ho chiamato quello vicino al garage e ho detto, Enrico, a tenere le serve se non c'è il caminetto. Hai detto, legna ne vuoi Enrico? E la canto io, no? Ho detto, vieni e ti abbigli, gratis, ma se metti a gavi. Ha detto, domani venga e mi abbigli, e fate giù, se per fine, due goffali pieni, due goffali. Ha passato due sedili, c'è una Hyundai grossa. Venga la cappotta, era piena. Certo. Canna gratis, misurare. Grazie per tutti, ah. Quindi. L'impresario lo via io. Martignazio. Se l'hai brutta giunta tutti a far legna, così è chiesto. Infatti. Infatti così è. Quando si tratta di andarci gratis, ma è giusto. Piace a tutto dopo gratis, però a venire con un quarto di mano, oh qui, è in alzata. Tu devi pensare, l'anno passato la via, sei cambio d'arrivo da questo anno. Io non ho costruito più, non mi bastava, ci ha giovato. C'è stato un 2-3 quintali di roba, non di più. Ha detto, mi se te la vuoi far tenere, io non la accoglio tanto. No, ci mi dà una mano tu per venire a posto, io non li voto. Ma ti ha regalo e ti devo dare pure una mano. Ma ammazza, ti va, lascia la tutti i via, lascia la zecchia. Certo, fate che piace i denni, cosa vuoi faccio da puro? E allora, passa a sala. Hai fatto come macchina. Ma praticamente bisogna farli così. Andrò nella faccia del fiume Maledi. Ti sto regalando, non ti voglio nulla. Sei lamentoso, non fai oggi, non fai denaro, non fai ghiccio, ti vengo incontro. Hai visto, ti trebocco, ti raccoglio, te lo mantenere, cioè ti do quello che è l'uso. No, non mangi, no. Hai visto, se te lo raccogli, fai io non ti voglio nulla. Se accorto leggi, se te lo mantenere, ti becchi l'uso, lo vuoi. Però mi devi dare una mano tu, una mano io. Oh, vedi, lascia per lì. È così, quindi pazienza, se non ne vuoi vuol dire che non interessava. Se ne interessava, la interessava che non vuole che mi imbroccano qua, solo che la mandronia è. Sono abituato a questa maniera, Bacchi, hanno preso, fa venire e dopo io da via, e allora, se te la vai, non è bigli. Sì, se te la accogli, te la bigli, te la mantieneggi, anzi, te la bocchi, ti paghi il mulino, ti paghi tutto il loro, te lo voglio dove non ti voglio nulla, non ti voglio neanche un centesimo. No, però se io posso venire ad aiutare, allora, viaggio che fa. Se papà mi saliva l'abbiamo fatto, l'abbiamo regalato l'uso. Ma chi? Così, allora. C'è gente, è proprio la mandronia che fanno, io così. Ma vuole proprio al regalo e così, nulla. Ma che? Regalo, ma regalo vanno però, se tu, per regalare devo andare a aiutare il muro. Allora è doppio regalo. Infatti, doppio regalo che suira. Ah, hai fatto bene a mandarsi da questo paese. Hai fatto in terra, si è mangiato i bisogni, si è praticato, ha fatto con cibo di tutto. Era un peccato, per venire a troppo, veniva. Purtroppo, sono dei buoni sabbi peggio baedi. Non c'è una posta più di metterli, i contenitori dell'olio che ho io, erano i pieni, ed era buono, avevo vinto. Purtroppo, se non c'è nessuno che la coglie, deve farla passare la cucina. Sì, peggio paretto. A casa le giusto, domani vanno e lo venne, a casa lo venne, non l'ho passato via, a casa l'ho venuto, lo venne manco per me. Ha giunto a domandarti a giusto muro. Certo, arrasta di cosa proprio. Certo, che hanno preso, pure da, non ha voluto fare. E ora voglia. Chi ha 5 cose se lo venne, lo venne arrivo a casa, lo venne, infatti lo venne, ho già fatto 4 quintali tra dove sono la serra e l'olivetto, lo venne là. Proprio quest'anno in certi posti è proprio andato da male, ma su da mio cognato ho visto che è abbondante di olive, era abbondante di olive, c'era tutta fatta. Certi posti sì, certi posti ce l'erano. E perché da Gianni, il mio vicino di campagna, ma che si può obbligare, vuole a macchina, non la coglie. Visto dai, c'è appunti che rimane. Dove ce n'è e dove non ce n'è. Magari ci stanno per la via Ghisù e tu no. Il prossimo anno per le due e non la Ghisù. Sono i figli mi buoni sempre. Sempre poco poco buono. Il prossimo anno dovrà essere pieno. Perché non li può fare, uno non sì, uno no. Il prossimo anno dobbiamo avere pieno. Dovresti avere il pieno tu così il prossimo anno. Il prossimo anno dovrò avere il pieno. Se no poi andrà brutto. No, perché non togli neanche le spese. Infatti. Infatti è così. Ma speriamo che cambia che col tempo così. Ma che cambia però. Se no siamo sempre venendo a rotoli. Stiamo sempre rotolando. L'anno scorso non vedo una riva punta. A Canno questi quattro rive in vita abbiamo fatto il mega io. No, su da mio cognato c'era solo un albero dove veniva un bel punta. Tutti gli altri erano belli le olive, proprio belle.